Tu lasci che il dolore ti bruci l'anima e ti vorresti odiare perché sai che potresti amare chi non lo capirà e porterebbe il sole via da te. Ora chiudi gli occhi e prova a volar via da qui. Resta più distante, trova il cielo che non hai. Ora apri gli occhi e prova a non nasconderti per quel che sei. Ti perdonerò.